il sole sorge ancora dalla parte sbagliata. Comprare casa non è cosa facile, anche se negli anni 80 quanto pare tutto era un po' diverso, diverso, comunque la guardi, diverso per come ne parli tu, che negli anni 80 eri solo un bambino, dimmi cosa parli a fare. Ti ho visto fare finta di star bene per la foto sul giornale, poi piangere nel letto la tua fine, bere come fosse l'ultima occasione per sentire meno male. Il sangue risale a fatica per il cuore ormai fuori moda, tu che non parlavi mai della tua vita, dimmi cosa sai di te. Non ci vuole molto per capire che sei meglio di me. Non ci vuole molto per capire che sei meglio di me. Non ci vuole molto per capire che sei meglio di me. Non ci vuole molto per capire che sei meglio di me.